Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuova settimana, nuovo appuntamento insieme all'Adico, un saluto a tutti da Francesco Galante, ma soprattutto un saluto a Gianluca Codognato, proprio dell'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, che è con noi al telefono. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Allora Gianluca, dimmi di sì. Sì. Bravo, da questo momento tu hai sottoscritto con me un contratto di non so quanti soldi per non so che cosa. Mi hai colto impreparato, Francesco, effettivamente, molto impreparato. Sì, ecco, niente, allora sì, Francesco, giustamente non me l'aspettavo, quindi non ce l'avevo messo d'accordo e effettivamente l'argomento è questo, è la... quello che sta succedendo da tempo ormai, che però sembra avere un'esplosione nel 2016, cioè le telefonate, la tempesta di telefonate che vengono effettuate da fornitori, operatori, gestori per vendere i propri prodotti alle famiglie. Sì, prodotti o servizi, insomma. Servizi, quindi stiamo parlando in particolare dell'erogazione del gas e di energia elettrica. Purtroppo in questi ultimi giorni noi riceviamo una media di 3 telefonate al giorno, quindi ne ho ricevuta una cinquantina dal 2016, e di persone anche veramente alcune disperate, cioè soprattutto la persona anziana, abbiamo già raccontato episodi simili, persone disperate che dicono mi hanno chiamato, mi hanno cominciato a fare delle domande, ho risposto sì, non so, ho sottoscritto un contratto. E altre persone che ci chiamano per dire cosa dobbiamo fare perché la smettono di tempestarci di telefonate. È una situazione in questo momento ingestibile. Ecco Gianluca, anche perché osservando un po' come stanno andando le cose, ci sono le nuove coppie di sposini o comunque che convivono che ormai utilizzano solo il telefono cellulare, e quindi i giovani hanno il telefono cellulare e non hanno la linea fissa, o magari hanno internet ma senza avere il telefono fisso. Il telefono fisso ce l'hanno normalmente le coppie anziane, e sono quelle che magari ancora pubblicano il loro numero sugli elenchi telefonici e che quindi vengono tempestati di telefonate. Sì, questa appunto è la lettura perfetta, anche se bisogna dire che molti ricevono telefonate anche al cellulare, questo magari per alcune ingenuità commesse anche lasciando il numero di telefono, il cellulare magari anche al supermercato, che ne so, comunque quelle sono casi un po' più particolari. In realtà, come dici te, le vittime quasi predestinate sono più che altro le persone anziane, che non sono neanche abituate a questa metodologia di vendita, e per cui si fanno anche, diciamo, tra virgolette, raggirare facilmente con offerte incredibili, e poi insomma si trovano spiazzate, dicono un sì credendo di parlare di un'altra cosa e si ritrovano con un contratto. Diciamo che questa cosa, ripeto, come ti dicevo prima, è diventata un po' ingestibile. Per cui guarda, mi permetto di lanciare intanto tramite la nostra radio, intanto un appello all'autorità garante perché intervenga assolutamente in questo caos che si è creato. Non è più possibile, secondo noi, stipulare un contratto al telefono in queste condizioni. Quantomeno ci deve essere un contratto successivo alla telefonata, che se non viene firmato significa che il contratto non è stato sottoscritto. Ecco, questo penso sia un senso logico. In un periodo dove c'è la multimedialità, noi torniamo, questa è la richiesta che fate voi dell'Adico, torniamo alla carta stampata, cioè nero su bianco, quando c'è un contratto deve essere visto, letto, firmato e controfirmato, insomma, perché possa valere. Che poi sembra un concetto ovvio, no? Ovvio. Dovrebbe essere ovvio. Non lo è, se ci devono essere le telefonate, perché capiamo anche le necessità di pubblicizzarsi da parte delle aziende, ripeto, successivamente alla telefonata ci deve essere un contratto, e la telefonata non può valere come sottoscrizione o stipula di un contratto. Questo assolutamente no. Fammi dire una cosa, Francesco, che abbiamo già detto altre volte, che però torna sempre utile. E c'è un modo per quantomeno contenere la tempesta di telefonate che arrivano da parte di gestori, dei fornitori, ed è quello di iscriversi al registro delle opposizioni. Ne abbiamo già parlato, insomma chiunque può andare a vedere nel sito del registro delle opposizioni come iscriversi, in questo modo si ha la garanzia che comunque dovrebbe arrivare qualche telefonata in meno. In ogni caso, la persona che è iscritta al registro delle opposizioni, quando e se riceve una telefonata, deve subito dire, annunciare appunto a chi lo sta chiamando che si è iscritta al registro dell'opposizione. Solitamente il fornitore, del gestore che ha chiamato, mette giù immediatamente il telefono perché ha paura delle sanzioni che possono arrivare. Ecco, quindi questa è una cosa importante. Dove ci si iscrive? L'abbiamo già detto, in internet? Sì, allora guarda, si va nel sito proprio www.registrodelleopposizioni.it, nel quale in modo chiaro ci sono scritte tutte le possibilità, i metodi per iscriversi, perché si può fare con la posta elettronica raccomandata, con un modulo elettronico che c'è sul sito web, ecco, andando, telefonando anche, quindi in modo molto semplice. Quindi ecco, andando là sicuramente si può avere un aiuto. Non si garantisce che non arrivino più telefonate, sicuramente dovrebbero essere contenute e insomma, certo. Si può sempre minacciare di essere iscritti, spiegare di essere iscritti, e appunto in vista delle possibili sanzioni di solito viene lasciato in pace immediatamente. Ecco, sperando che poi questa vostra richiesta, che abbiamo appena passato ufficialmente anche attraverso le nostre frequenze, possa essere presa in considerazione, se no faremo una raccolta firme, insomma. Faremo assolutamente, guarda, ci prendiamo l'impegno, petizione, raccolta firme, tutto quello che è necessario perché insomma queste cose non accadano più. Insomma. Allora, torniamo al vecchio sistema. Un contratto deve essere scritto su carta, letto e firmato, e anche aggiungerei scritto a caratteri normali. Guarda, Francesco, hai detto una cosa importantissima, perché siamo stufi degli asterischi che rimandano a note scritte che neanche con una lente di ingrandimento in calce, assolutamente basta. Va bene, diciamo, basta veramente. Grazie all'Adico, occhio quindi a queste cose, iscriviamoci al registro delle opposizioni. Grazie a Gianluca Codognato, al grazie prossimo appuntamento. Grazie mille. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.